Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Magazine 8-8 minuti per questo lunedì 29 gennaio, ricordo ancora una pubblicazione in premio per voi, lo faremo magari nella seconda parte, intanto diamo un'occhiata in rassegna stampa culturale sui contenuti degli inserti usciti durante il weekend allegati ai principali quotidiani e iniziamo dal quotidiano padronale Il Sole 24 Ore, ma vedremo fino a che punto certamente Il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, quindi per quanto riguarda la domenica del Sole 24 Ore, devo ammettere che, se vuoi in maniera furbesca o meno, questo non lo so, ma i contenuti sono assolutamente trasversali e anche di grande profondità culturale e una sorta di obiettività anche per tutto ciò che può essere una diffusione tra letteratura, arte, esposizioni, teatro, insomma è un po' l'inserto che guardo con, ammetto, un'attenzione particolare. Per quanto riguarda altri inserti che invece ti aspetti, non so, dai giornaloni, da Robinson di Repubblica, dal Corriere della Sera con la lettura, sempre prestigiosi, un po' più allineati, ecco, diciamo così, parere personale, però consiglio assolutamente la lettura dei magazine sempre e comunque, perché a dispetto anche dell'uscita giornaliera del quotidiano stesso, portano un aspetto meno mordi e fuggi e più approfondito, soprattutto per quanto riguarda la cultura e, perché no, le rubriche anche del Breakfast Club. È subito a pagina 2 della Domenica del Sole 24 Ore. Chi non si è mai sentito Fantozzi, su, dai, a parte che chi non si è mai sentito Fantozzi sinceramente ha una carenza, perché è un valore aggiunto sentirsi Fantozzi, secondo me. Comunque, detto questo, qui parliamo di lavoro e spesso le mie omelie, no, per il lavoro di noi operai, il lavoro dei dipendenti, la situazione attuale, però siamo tutti bravi, insomma, voglio dire, bisogna anche rivolgersi alla controparte e io oggi mi voglio rivolgere alla controparte e non ai colleghi. In seguito all'articolo di Alberto Orioli a pagina 2, tutte le colpe di capi inetti e mediocri. Questo è il titolo principale, economia e occupazione. Marco Bentivogli cerca nel ruolo dei vertici la causa del disamore verso il lavoro, gestione del comando arcaica, idea sbagliata dello smart working, deriva narcisistica e capitalismo basato sull'amichettismo. È lui con parole più forbite, se vogliamo, non esattamente le mie, però alcuni contenuti sono molto abbinabili. Io mi voglio rivolgere agli imprenditori, chissà se ne abbiamo in ascolto, i padroni, come di solito li definisco e come devono essere definiti, no, col loro nome. Allora, intanto, certo, la produttività, questo è come darvi torto, ci mancherebbe, però ancora prima che la produttività, guardate la serietà, l'onestà, la puntualità, la capacità di far gruppo con gli altri operai o con gli altri dipendenti. Perché tutto questo? Perché in seguito vi sarà anche un'affezione maggiore per quello che è il lavoro. Non siate fossilizzati unicamente sul tutto e subito. Certo, ci mancherebbe, è chiaro, però quante volte vi è capitato un operaio o un dipendente furbetto, però bravissimo, ma che alla fine poi è quello che porta, mette in difficoltà, a una situazione per cui, insomma, intanto guardiamo le basi, la serietà della persona, la sincerità, l'applicazione, la capacità di interagire con i colleghi, la capacità di essere puntuale, di rispettare l'orario di lavoro. Per me queste sono delle caratteristiche che devono essere osservate ancora prima che una mera produttività, Dare del tu, no, perché non non diamoci del tu, scusate, io molto sempre con i miei titolari ho sempre detto: guardi, se lei vuole può darmi del tu, però io sinceramente mantenete quella distanza, perché veramente questo è l'amichettismo. Ma dai, ma tanto questo lo fai per stasera, dai un'occhiata alle mail, puoi organizzare stasera dopo il lavoro, tanto dai, lo sai, quindi insomma mantenete e manteniamo quel distacco, ricordiamoci sempre del ruolo, quindi abusare del tu, poi ci sono dei casi eccezionali, mi rendo conto, ma evitiamo un tu troppo facile, guardate un po' come sono riusciti con questo amichettismo a girare a loro favore sempre le cose, quindi manteniamo una sorta di distanza, che vuole dire poi rispetto reciproco. E comunque c'è un altro aspetto che è fondamentale, secondo me, sto sempre parlando con gli imprenditori e i padroni, guardate le esigenze del vostro operaio, del vostro dipendente, guardate sempre con attenzione le esigenze, perché ok, do 50 euro in più, tanto mi viene tutto sabato. No, ci può essere un dipendente che di quei 50 euro, sì, va bene, e ci mancherebbe anche che non mi dai quei 50 euro, però sinceramente piuttosto lasciami riposare un giorno. Ecco, per cui attenzione anche a questa cosa. Poi c'è il dipendente, caspita, anzi, che è sotto strozzo, ha indubbiamente bisogno di un'attenzione maggiore da questo punto di vista. Ecco, quindi conoscere bene le persone con cui si ha a che fare, sto parlando di imprenditori, ma sto parlando anche del caporeparto, del superiore, via discorrendo, anche questo è un aspetto fondamentale. Notate le esigenze del personale, ci può essere chi ha bisogno di tempo che è impagabile, ne abbiamo parlato l'altra volta venerdì, ricordate, c'è chi ha bisogno di tempo e c'è chi giustamente ha bisogno di un'attenzione economica, per cui non fate di tutta un'erba un fascio in questa situazione, perché non siamo marionette, siamo persone con delle esigenze, con ovviamente delle peculiarità, e quindi non cadete nell'ossimoro che è veramente un ossimoro: se sto bene io che sono il titolare, automaticamente sta bene anche il mio dipendente. No, è tutto a rovescio, è completamente il contrario, è per quello che ho detto che è un ossimoro. Se sta bene il mio operaio e se sta bene il mio dipendente, allora starò bene anch'io, e questo è il comandamento per un imprenditore. Thank you. Intanto parliamo anche di AYM Trio, dal loro ultimo disco Bangalore, con il featuring la voce di Varia Shri Venugopal. Abbiamo ascoltato questa formazione al Torrione nel concerto di venerdì. Ovviamente ho subito preso il disco, è stato un lavoro che ha dato, oltre che stupore, curiosità, conoscere nuove metriche da un linguaggio diverso che va a incontrare un modern jazz forbito, un interplay al contrabbasso preciso e perché no a volte anche funky, un batterista veramente completo, un conoscitore della musica che sapeva entrare e uscire dal ritmo con grande capacità e talento. La composizione viene dal pianista che sostituiva una ritmica in maniera complementare, quindi oltre che il gusto anche la capacità di conoscere sonorità nuove. È stata la prima modalità di incontro al Torrione per il 2024. Il disco è Bangalore e YM Trio, la formazione che vi ho presentato poc'anzi, con la voce di una giovanissima Varyusher Shireva Gopal, nome difficile che non ho pronunciato bene, ma vi posso assicurare una certezza di valore all'interno di questo trio, che poi ovviamente diventa un featuring, cioè poi il quartetto che è stato protagonista al Torrione. Davvero cercate, certo, è ovvio, non sto chiaramente giustificando, perché esistono gli sfaccendati, i furbetti, per carità, ne esiste anche l'imprenditore disonesto, esiste ovunque e comunque la situazione che nell'arcobaleno vi ho appena presentato comprende tutti i colori, ce n'è di tutti i gusti, insomma. Però secondo me, come ho sempre portato a intuire i miei titolari, 25 anni sono stato dipendente, operaio, facchino, magazziniero, elettricista, capotecnico, ho sempre dato l'idea della puntualità, dell'onestà, della sincerità, di tutto quello che potesse essere uno scambio che fosse alla pari il più possibile. Certo, non chiedetemi, e sapete bene che io sto facendo questo per necessità, quindi lasciatemi il mio tempo, non prendete anche quello, non chiedetemi l'anima, quella lasciatemela, che indubbiamente avrò modo di ripagarvi con un'applicazione maggiore quando sarà il caso, ma l'anima e il tempo a mia disposizione per tutto ciò che può essere una formazione, io ho fatto la scelta della formazione culturale, quello lasciatemelo. Perché altrimenti andiamo in un contrasto, come vi ho detto in precedenza, che non sempre corrisponde al sta bene il titolare, quindi sta bene il padrone, sta bene anche l'operaio. No, abbiamo visto che non è così. Proviamo a cambiare i termini. Sta bene l'operaio? Allora sta bene anche il titolare, soprattutto in senso economico. Dice l'inserto del quotidiano di Confindustria, che è la domenica del Sole 24 Ore. E per quanto riguarda l'arte, invece, siccome ho detto non siamo marionette, con tutto il rispetto per le marionette, perché ancora in mostra, già presentata a Palazzo Magnani a Reggio Emilia, una mostra raccontata come le avanguardie del Novecento trasformarono anche i burattini da De Pero a Clé, la parola sociale e il fil rouge che permette di comprendere molte delle esperienze narrate in queste stanze. È una esposizione bellissima, non

Allora, il Semenzara, come l'entusiasmo mi ha portato a fare un po' di confusione, il Semenzara è l'appassionato di gioco d'azzardo. Il Semenzara è quello menagramo di un menagramo, ma son vestite di viola, si tocchi. Non è l'appassionato di biliardo. L'appassionato di biliardo è Diego Cattellani, è un bel direttore. Cattellani, carissimo. No, ci tenevo a dare questa precisazione, ci tenevo anche a portare questo articolo che troviamo su Robinson di Repubblica, molto bello tra l'altro, dedicato a marionette avanguardie. Come ben sapete, noi può capitare che il breakfast anticipi i magazine, come allo stesso modo i magazine a volte anticipano il Breakfast Club, quindi abbiamo una collaborazione a distanza. Loro non lo sanno, ma io ci collaboro. Comunque Michel Portal, in questo caso nel suo lavoro Minneapolis, We Insist. Altro tutti i tempi. Ci accompagna la pubblicità, torneremo, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato anche di teatro, perché Marionette Avanguardia praticamente ricostruisce un teatro all'interno di Palazzo Magnani. Parleremo adesso invece di letteratura con due anticipazioni, una che vi ho già dato per un'uscita su Tutto Libri, che ha dato approfondimento un pochettino, forse ho dato citazione la puntata scorsa, ho recuperato quel lavoro di cui vi ho parlato, che parla di jazz, di musica in questo caso, e sarà in premio per voi al 333-180-9494. E poi avremo anche l'anticipazione per il Voltiamo Pagina, che in questo caso invece sono stati i magazine a dare grandissimo consiglio a me. Stiamo parlando del Bloomsbury Group, di cui abbiamo già conosciuto autori, l'autrice Virginia Woolf, che faceva parte di questa compagnia assolutamente oltre che all'avanguardia. Avremo modo in rientro di conoscere e poi di fare approfondimento nel Voltiamo Pagina. Intanto 333-180-9494 per il lavoro che andremo a presentare dopo la pubblicità. A tra poco. Thank you. velocemente vi parlo di quello che sarà poi protagonista, rientrando in diretta. Tra l'altro ho messo insieme Eric Dolphy con gli Afrobeat Coccolo. Gli Afrobeat è un bellissimo articolo in Oltre il suono, oltre o altri suoni, è il mio. Oltre i suoni invece è quello del Manifesto. Sto facendo un po' di confusione. Comunque c'è un bellissimo articolo su Alias del Manifesto che parla di Afrobeat. Qui Coccolo, Love International, è un amore internazionale, quello che viene pubblicato nel 1949 nel collegio femminile di Dorothy Strachey. Il dolce ha il sapore di una notte di passione, distante dalle convenzioni vittoriane. Amica e traduttrice di Guide, scrive un unico romanzo, racconta il delicato sentimento non consumato fra la sedicenne Olivia e la sua insegnante. Sarà edito da Astoria, sarà il protagonista per quanto riguarda il voltiamo pagina imminente di mercoledì. Pensate che questo lavoro, che è stato l'unico romanzo scritto dalla Strachey, ha ispirato Andrea Aciman per Chiamami col tuo nome, e insomma ne avremo modo poi, Love International intanto, Coccolo, di parlarne nel voltiamo pagina di mercoledì. Ma a sua volta Tutto Libri della Stampa mi ha portato a un altro lavoro che ho citato velocemente, lo metto in palio oggi. Compro una vocale, la U, perché il Manifesto ha ultrasuoni, oltre suono, altri suoni, è ultrasuoni. Allora, è Bollati Boringhieri l'editore, da poco la giornata della memoria, ne abbiamo parlato, ovviamente è uno dei libri che viene consigliato la settimana scorsa da Tutto Libri della Stampa. L'autore è Damian Lineard, Mr. Goebbels Jazz Band Bollati Boringhieri. È questa modalità di intrattenimento in jazz ispirato a una storia vera, uno straordinario page turner sulla peggior propaganda nazista, con tanto di trombe, clarinetti e batterie. Sapete, no, Goebbels, questo genio del male, il ministro della propaganda nazista, che fa, prende musicisti che sono oppositori politici, sono prigionieri, sono ebrei, sono all'interno dei lager, e crea una jazz band per quanto riguarda una propaganda dalle radio tedesche che trasmetteva in tutto il mondo. Insomma, lui appunto definiva questa una musica da ubriaconi e da depravati, e poi alla fine ne crea allo stesso modo per infiltrare attraverso le note jazz anche in tutta Europa una jazz band che proveniva, che andava a prendere dei musicisti all'interno dei lager. Mr. Goebbels Jazz Band, il romanzo ispirato a una storia vera di Damian Lineard. Le edizioni è per la prestigiosa Bollati e Boringhieri. Il quiz è questo. Allora, stiamo ascoltando Eric Dolphy. Eric Dolphy, oltretutto muore in Germania, Eric Dolphy. Comunque, qui in Out to Lunch, in questo disco, dedica il brano che stiamo ascoltando a un flautista italiano che non l'avrei mai detto io, non avrei mai pensato che era per Eric Dolphy. Lui aveva una grande ammirazione per questo famosissimo flautista italiano. Se mi dite il nome di questo musicista italiano, virtuoso compositore e interprete al flauto traverso, per voi Mr. Goebbels Jazz Band di Damian Lineard. A chi è dedicato questo brano? Chi è il musicista, il flautista italiano, tra l'altro, come ho detto, famosissimo? Aspetto le vostre risposte al 333-180-9494. Sarà mia cura consegnarvi questo lavoro, magari anche domani alla Ubic, insomma. Thank you. Grazie intanto alle risposte che stanno arrivando. Il vincitore con risposta esatta è Luigi, che scrive immediatamente: sì, neanch'io sai, pensavo, ma Eric Dolphy, grande ammiratore di Severino Gazzelloni. Questo brano si chiama semplicemente Gazzelloni, è per Blue Note all'interno di How to Lunch, capolavoro. Non è Giuseppe Tartini, grazie comunque Andrea e una buona giornata. Sì, azzeccato Raffaele, però è arrivato ai noi prima Luigi. Io ti ringrazio tantissimo comunque per aver giocato con il quiz dei 103.1 su Radio Città Fujiko, mattiniere e mattinieri, prima colazione in diretta come ogni lunedì con i magazine. Oh, che marcia! Luigi, anche per te il libro, come già azzeccato l'ascoltatore che in precedenza ha scritto per il film e per, ho detto film, è un libro, è Lumière, però la durata di un film, è domani alle ore 18 alla libreria Ubi. A Bologna, anche per chi non è appassionato di calcio, conosciamo questo nome, Arpad Weis, ungherese, e attraverso una biografia scritta da Matteo Marani a pagina 10, ricordate il Bologna che tremare il mondo fare, dallo scudetto però ad Auschwitz, allenatore di origine ungherese, ebreo, un identikit che ne viene portata a pagina 10 da Alias nell'edizione del Sabato. Calciatore e allenatore attivo in Italia negli anni 30, vinse uno scudetto con l'Ambrosiana e due con il Bologna. Finisce purtroppo ad Auschwitz a distanza di 80 anni, come viene ricordato. Oggi abbiamo per fortuna molte testimonianze di Weis in giro per l'Italia. Penso alla targa posto sotto la curva di Maratona allo stadio di Bologna e rigurgiti antisemiti che sono ancora oggi presenti negli stadi italiani. Com'è possibile? Che accade? La storia dovrebbe insegnare. E risponde l'autore della biografia: sono dubbioso su questo. La conoscenza e il sapere sono gli unici anticorpi a certe degenerazioni e insulti alle civiltà. Congedo a voi con un lavoro che ha portato Sergio Fanti e la sua passione, scomparso da poco Gigi Riva, ne dà la prima pagina la domenica del Sole 24 Ore con un articolo bellissimo di Marcello Fois. Eppure dirà qualcuno, era solo un calciatore e il calcio, si sa, è quello della nostra nazione che pare più intoccabile, persino dei diritti fondamentali, ma quello di Gigi Riva era un altro calcio, uno sport di uomini lontanissimi dai miliardari cibernetici odierni, uno sport di uomini che vivevano nel mondo, che rappresentavano un mito raggiungibile, persino domestico. E questo è un po' il contenuto anche nel lavoro che manderò qui, un brano curato da Sergio Fanti. Invece, partita dopo partita, il lavoro coscienzioso, i gol, il carattere da lottatore leale, il crescente attaccamento, poi diventato smisurato amore per la maglia. Insomma, i valori nobili di uomo vero hanno conquistato il popolo sardo. E per la Sardegna Gigi Riva è diventato un'icona, come una divinità. Tutti lo invitavano a casa e lui si concedeva quanto più poteva, riconoscente per l'amore che gli arrivava. Perché lui, sono parole sue, era arrivato a Cagliari incattivito e senza famiglia e ha trovato l'accoglienza di tante famiglie. Si è creato dentro di me un punto d'appoggio importante. C'era il pescatore che, perché hai fatto gol, ti portava a casa sua, ti faceva mangiare con i suoi figli, ti trattava come un parente, e lì pian pianino mi sono accorto che mi stavo appoggiando di nuovo a una regione, una città che mi stava dando una seconda famiglia praticamente. Andava nelle case e trovava la sua foto assieme alle foto dei cari di quella famiglia, di quella casa. Sono cose che lo hanno toccato per sempre. Anche se andavo nel centro Sardegna, in qualche paesino dove trovavi delle persone che avevano la tua fotografia assieme ai parenti, a queste cose, queste sono cose che per me sono molto belle. Gigi Riva è stato l'inconsapevole promoter della Sardegna. E quando il Cagliari ha vinto addirittura lo scudetto, ha fatto conoscere la Sardegna nel mondo. Tutte le grandi squadre lo volevano. Soprattutto la Juventus lo corteggiava ossessivamente e lo avrebbe ricoperto di soldi, ma lui non poteva tradire chi gli aveva dato una casa. E sarebbe stato immorale per lui tradire quella gente. Il fatto che questa regione mi abbia veramente adottato, mi ha preso, mi ha dato una casa, mi ha dato una famiglia, mi ha dato simpatia, mi ha dato affetto, come fai poi a lasciare tutto e dire vabbè, grazie, arrivederci, ma adesso vado a... Non mi sembrava giusto. Ed è rimasto lì, a Cagliari, camminando sempre più zoppo per le sue gambe regalate alla nazionale. Un uomo di poche parole, che evitava i giornalisti e amava De André. Riservatissimo. Le ultime immagini pubbliche sono di Gigi che entra claudicante nella sala della prima del film su di lui, coi suoi compagni di quel Cagliari del 1970 che erano in sala, venuti da ogni parte, anzianotti anche loro, ma con la memoria indissolubile a quell'impresa storica e impossibile. La commozione evidente sul viso di un uomo che non voleva piangere, perché un uomo deve mantenere dignità e schiena dritta. Gigi è stato un uomo di silenzi, di sentimenti nascosti e nei fatti di una integrità esemplare e di una fedeltà difficile da praticare. Perché rinunciare ad ingaggi stratosferici non è certamente facile. La Sardegna gliene sarà grata per sempre. Di Gigi Riva si parlerà ancora tra secoli, come di una leggenda, perché Gigi Riva è una leggenda. Riva, Riva, Riva, tiro ed è gol. Riva, Riva ha segnato, 3-2 per l'Italia. Grazie Sergio per questo lavoro con cui vi congedo, ci congediamo a voi. Mi scuso per il piccolo refuso di regia iniziale, ma oggi sono stati magazine veramente corposi, quindi abbiamo iniziato bene la settimana. Grazie a chi ha giocato con il Breakfast Club del lunedì, vi aspetto domani per un altrettanto corposo Mood Groove, per una prima colazione in diretta assieme. A breve di Pain Enciclopedico, a seguire avremo Liberi Dentro, rassegna stampa, caffè e paglia del lunedì. Domani il Mood Groove alle 7, puntualissimi. Vi aspetto per colazione. Con un caloroso abbraccio e un buon inizio settimana, una buona mattinata. Vi saluto. William Piana, a domani.